di qua, di là, ne posso ancora Rosina ritrovar. Sediamo un poco, tra il viaggio e la paura, le mie gambe già più regger non ponno. I verbi grazia, il sonno, sì, può dormir un poco quietamente. Quando si dorme, non si pensa a niente. Qui Rosina senz'altro sarà tornata, io voglio. Ma che vedo, ma se l'ho addormentato, adesso è tempo di fare il colpo. Piano, perché io tremi, ahimò, treme l'amore.